questione ambientale, va bene? Questione ambientale. Non è una questione di dibattito, vorrei che ciascuno di voi mi dicesse la questione ambientale in cosa consiste, quali sono i vari aspetti in cui si articola la questione ambientale. Per esempio, uno potrebbe dire ha a che fare con la questione ambientale che cosa? Un esempio, vediamo. Greta Thunberg. Greta Thunberg. La manifestazione presso Amazonica. Ecco, questo sì è un argomento. Ma cosa in particolare della foresta amazzonica? Gli alberi. Hanno provato a fare incendi, ci sono tanti. Si parla una alla volta. Prego. Allora, gli incendi che colpiscono le grandi foreste, tu dici. Qual è la parola che potremmo utilizzare? Inquinamento. Inquinamento. Brava, questa è più indicata. Benissimo. Deforestazione. Quindi questo è un aspetto importante della questione ambientale, la deforestazione. Va bene? Quali domande ci possiamo fare relativamente alla deforestazione? Tante. Vediamo che domande ci possono venire in mente. Sentiamo. Aspetta, aspetta, lei non sta ascoltando e sta disturbando e soprattutto non ti sta ascoltando. Prego, prego. Ok, ci sono deforestazioni che avvengono in modo naturale? No. Ci... Sì, magari con un fulmine. Ok, con un fulmine oppure un terremoto. Un terremoto lei dice anche, sì, certo, eventi vulcanici. Uragani, fulmini, eccetera. Ok, allora ci può essere una deforestazione che avviene per eventi naturali e una che avviene per eventi, sentiamo. Ma a differenza di quelle naturali, quelle che sono delle mani sono molto più frequenti e molto più aggressive, distruttive. Ok, tu dici, stai facendo un'ipotesi, tutta da verificare, va bene. Però lei dice, secondo lei, immagina, ipotizza che quelle, a meno che non hai dei dati, bene. Dunque, si possono avere delle opinioni, certo, ma le opinioni diventano importanti e diventano qualcosa di più che una semplice opinione quando è supportata da evidenze in forma di dati, numeri, studi, importante la fonte e così via, o anche da esperienze. Va bene? Allora, continuiamo. Tu avevi alzato la mano, volevi dire qualcosa? Volevo dire una cosa generale. Mi ricordo che un anno fa ci sono stati gli incendi per la Montiserra, per sì. Colpa di uno che aveva un po' così a capo, evidentemente. E mi ricordo che c'era fatta allenare a fare c'era di nuovo, la fuoco tutto quanto, non poteva via e si è tutto di nuovo. Allora, in questo caso si dice colposo o doloso? Doloso. Piramide. Colposo. Vabbè, sì, la persona viene definita piromane. Allora, vorrei che i vostri cellulari in questi casi sì che li dovete utilizzare. Andate a vedere la differenza tra colposo e doloso. D'accordo? Chi la trovasse e la vuole dire... L'omicidio colposo è il reato consistente nella soppressione di una vita umana ad opera di una persona in conseguenza di un fatto a lei imputabile, ma compiuto senza intenzionalità. Fermati lì. Compiuto senza intenzionalità. Colposo. Sono in macchina, guido, e non me ne accorgo, c'è la nebbia e così via. Qualcuno mi attraversa la strada, non faccio in tempo a frenare. Va bene, succede un incidente mortale. Ecco. Allora in questo caso colposo. Doloso, con dolo, è il piromane che lo fa intenzionalmente. Nel primo caso colposo non c'è intenzione, nel secondo caso c'è l'intenzione. Prego. Doloso. Cioè ha fatto con dolo, cioè piena coscienza e tentazione, finalità, reato e delitto. Benissimo. Va bene, abbiamo capito la differenza. Tu vuoi dire qualcosa, prego. A me viene una po' di noia. Ho visto un post su Instagram, non so se è vero, ma penso di sì, che l'Amazzonia stava bruciando e il telegiornale non ne parlava per niente. Non ne parlava, faceva vedere che era uscito un nuovo film di Peppa Pig, cioè è una cosa importante e non informano. Ne hanno parlato quando c'è stato così, Sì. Ci stiamo facendo, vi ricordo, delle domande intorno alla deforestazione. Quindi, quali domande ci possiamo fare intorno alla deforestazione? Ce l'avete delle domande? Prego. Perché c'è così poca informazione? Ok. Non si sta impegnando. Va bene. Quando ci si fa delle domande, si possono fare poi anche delle ipotesi. Le ipotesi che si fanno vanno poi verificate. Cioè io posso immaginare che ci sia una certa ragione, ma solo il fatto di immaginare che ci sia una certa ragione come causa, diciamo, mi autorizza a dire che è sicuramente così? No, ci vogliono delle prove. Ci vogliono, prego. Visto che sappiamo che è stato ordinato di bruciare la foresta amazzonica, cioè, possiamo chiederci, ma erano tutti d'accordo e quindi non volevano parlarne ai telegiornali perché non volevano che si sapesse, e quindi c'è qualcosa al governo che fa, ad esempio, c'è un circolo di soldi? Cioè, la domanda è anche quella, se c'è qualcosa sotto, dico di politica anche. Ecco, sì. Benissimo, continuiamo così. Che altre domande ci possiamo fare? Prego. Io so che l'incendio in Amazzonia, o comunque nelle foreste tropicali, sono stati applicati per liberare lo spazio per poi coltivare piantagioni di soia o di palma. Ok. Allora, sì, anche qui avete capito come dice, no? Per liberare spazio, lui dice, per l'agricoltura e per i pascoli. Ok, sentiamo, prego. Io ho saputo che alcuni attori famosi come DiCaprio hanno mandato dei soldi per mandarci tipo dei Canadair con dell'acqua. Ma DiCaprio sono tantissimi anni che sostiene l'ambiente. Sì, lo so. Fatto un ambasciatore. Ok. Pensate che DiCaprio lo può fare, secondo voi, per convinzione personale o anche per mestiere? Per entrambi. Per entrambi, ok. Va bene, altre domande intorno alla deforestazione ce l'avete? Se no passiamo a un altro aspetto. Prego. Io ho una domanda su quello che hai detto te. Ma da chi è stato ordinato? Dal governo. Ecco, sì, interessante la tua domanda, cioè quale governo è successo, che governo c'era, che in passato ci sono stati incendi di questa natura, appunto dolosi, che governo c'era, che governo c'è nel corso del tempo, i vari governi che si sono succeduti. Che tipo di politica hanno fatto rispetto alla foresta equatoriale e così via. Se ne occupa la comunità internazionale come se ne occupa anche questa? Prego. Allora, il fatto dell'Amazzonia. Se l'hanno fatto apposta, nel senso proprio il governo l'ha fatto apposta, perché allora dicevano, l'hanno detto, non so se l'hanno fatto veramente, che provavano lo stesso a spegnerlo. Ok, sì, quindi, ma qui c'è una domanda implicita, ma è stato il governo oppure il governo ha lasciato fare, per esempio? Ci sono varie situazioni che andrebbero esplorate. Però ora, un'altra domanda intorno alla deforestazione, ci possiamo chiedere che effetti ha, per esempio, che effetti ha la deforestazione, è un'altra domanda importante. Oppure altre domande intorno alla deforestazione? Che domande vi fate? Che ci guadagnano gli altri? che ci guadagnano. C'è qualcuno che ci guadagna? Sì. Questo è interessante. Prego. Aziende che sfruttano quei terreni. Sì. Anche lo Stato, perché poi comunque il terreno non appartiene al governo. Mm-hmm. E quindi se qualcuno ci coltiva sopra, dei soldi arriveranno comunque allo Stato. Ok. Altre ipotesi? Chi ci guadagna? Si deve per forza bruciare per deforestare? No, abbattere. Ecco. Prego. C'è stato, si diceva sempre che sarebbe comunque stato, nonostante fosse detto che fosse vietato questa deforestazione sempre della foresta amazzonica, anche per ditte, per ditte, dice. Cioè, tipo per le, che producono la carta, che producono costituisce, ad esempio, la croce. Ok, la carta e poi che altro? Se abbatto l'albero? No, c'è anche i mobili. Quindi legname. Sì. Può essere legname pregiato, per esempio. Ok? Quindi legname pregiato, carta. Cosa offre la foresta in termini di risorse? Un altro aspetto importante, prego. Ossigeno, certo. Riparo. Per gli animali, sì. Risorse naturali come cibo o anche altro, molto probabilmente per loro. Influisce sul clima? Sì. Ok. Allora, dovremmo fare un lungo elenco delle risorse naturali che si possono trovare dentro la foresta. Va bene? E come influisce sul clima globale? Quindi è un bene comune, secondo voi, che appartiene solo a una parte che si può privatizzare, oppure deve essere un bene comune dell'umanità? Quello della... Ecco, perché sappiamo che influisce sul clima globale, per esempio. Va bene, andiamo avanti. Lei ha accennato a un aspetto, ma se io tolgo la foresta, gli animali che ci stanno dentro... Dove vanno? Schiattano in qualche modo, ma o se no c'è un po' di un'immigrazione. Uno alla volta. Uno alla volta, uno alla volta. Sentiamone. Ma forse abbiamo fatto anche immigrazione. Cioè, negli anni passati dovevano anche altri animali, tipo il bodo, che è un mondo scappato. Ha fatto immigrazione e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci dovrebbe essere il momento in cui venti ci succede la stessa cosa con gli animali. Tipo le scimmie o le scimpanze, ne so. Immigrano, non lanciano fame e scappa loro. Sentiamo lei come dice. Ah, ecco, tu dici c'è, questo è un aspetto interessante, c'è un mercato nero di animali esotici. Il mercato nero quando è che si fa? Quando questo commercio quando è illegale. Questo è un aspetto interessante a cui pochi pensano. Non so, ci sono persone che gli piace avere nella vasca da bagno un alligatore, faccio per dire, o una tigre e così via, come se fosse un oggetto, no? Come se fosse qualcosa di cui ci si può appropriare. Ok, questo è un aspetto interessante. Poi, tu cosa vuoi dire? Prego. Ah no, io volevo dire che avevo visto dei dati che la foresta amazzonica stava bruciando già da tanto, cioè non anche negli anni passati, erano tipo 5 anni che continuava a bruciare. Sì, infatti, interessante come dice, no? Non è solo ora, ma ci sono dei dati visti dal satellite, forse hai visto, e si vede in tempo reale, cioè fanno scorrere il tempo velocemente e si vede come compaiono dei buchi qua e là della foresta, no? Nel corso del tempo. Oh, scusate, chi è che mi chiama? Va bene, quindi lei ci sta dicendo una cosa importantissima, che questa è una cosa che dura da molto tempo e riguarda solo la foresta amazzonica? No, anche altre foreste. Bene. Quindi ci possono essere anche altre foreste che subiscono le stesse conseguenze. Thank you. ve ne dico una. Non so se avete trovato scritto sulle etichette dei cibi al supermercato olio di palma. Ecco. Allora, no, ma è per dirvi, andate a vedere, poi scrivete olio di palma e guardate le immagini. Per quello che... e vedete se scoprite qualcosa, d'accordo? Dove si coltiva? Prego. Secondo me l'olio di palma fa male solamente perché noi lo, cioè, industrialmente lo lavoriamo troppo, perché in realtà l'olio di palma, cioè, lo coltivano in Africa, se non sbaglio, e non fa male quello... Però... Oh, una alla volta, ok. L'olio di palma in realtà, ieri sera guardavo una trasmissione, l'hanno detto proprio ieri sera, che l'olio di palma fa male perché quando viene, cioè, quando viene raffinato... Per quello tu dici. Allora, c'è da capire, intanto stiamo vedendo una cosa, ci stiamo chiedendo, ma alla salute umana l'olio di palma fa bene, fa male? Spesso c'è scritto sulle confezioni, da un po' di tempo in qua, senza olio di palma. Va bene? Sentiamo lei cosa dice. Quando viene proprio prodotto, quindi viene coltivato, molte volte è fatto clandestinamente, ovvero in modo legale, e con sfruttamento anche del personale, e quindi di conseguenza viene lavorato in malo modo. Ci aggiungono molte sostanze che non fanno assolutamente bene. Mm-hmm. Quindi c'è anche quest'altra ipotesi, tu dici, da fare, cioè da verificare. E... domanda, dove viene coltivato? Prego. In zone tropicali. Ecco, questo è importante. Se c'è una grande, si chiamano multinazionali, aziende multinazionali, bisogna chiedersi cosa sono, va bene? Qualcuno ha un'idea, chi vuole cerchi su internet. Cos'è un'azienda, una grande azienda multinazionale? Ok, altri, tu cosa dici? Dillo con parole tue. È un'azienda che sta nei vari parti del mondo per produrre prodotti. Ok, qualcuno, se qualcuno vuole trovare una definizione invece sul su internet. Una alla volta. Aspetta, aspetta. Quando uno parla, vi ricordate che bisogna ascoltare ciò che dice, soprattutto dovete ascoltare ciò che vi fa venire in mente. Questo non lo scordate mai. Quando uno parla, vi fa venire in mente, vi fa fare associazioni di idee, vi fa venire in mente domande, vi fa venire il desiderio di integrare, di aggiungere qualcosa a quello che la persona ha detto. Poi vi chiedete, ma sono d'accordo, non sono d'accordo, e così via. Quindi non perdete questo aspetto. Prego. Volevo dire che la mia professoressa delle medie mi aveva detto che, per esempio, la multinazionale della Nike sfruttava i bambini per fare le scarpe. Come? Non ho capito bene cosa faceva. Che sfruttava i bambini. Li sfruttava, cioè sfruttava il lavoro minorile. Sì, esatto, anche adesso. Così, mi avevo detto io non ho le prove. Ok. Nemmeno mi sono informata, però mi ricordo che ce l'aveva detto. E che praticamente si facevano lì a bassi prezzi, mentre poi le rivendevano con le multinazionali magari a 100-200 euro. Certo, in modo da abbassare il prezzo, diciamo, essere competitivi, pagare meno il lavoro dei bimbi rispetto a quello degli adulti, esatto, e così via. Esatto, prendi a tanto di più perché la gente è più, okay, me compresa. Se chi avesse voglia, tu o altri, su qualsiasi di questi argomenti potete fare delle vostre ricerche. Sentiamo cosa dice lei. Un'altra cosa importante per quelli che non intervengono, perché non ci hanno subito, è importante che diciate quello che pensate. Anche se sono due parole, dovete dirle. Chiaro? dovete pensare giusto e sbagliato, dovete partecipare alla discussione. Allora, sentiamo, prego. Prego, di pure. Come ti chiami, scusa? Laura Nacchi. Laura, sì. Avevo sentito, ho visto su internet una notizia in cui c'era scritto che la multinazionale dell'Adidas usa non so quante bottiglie di plastica riciclandole per farci le scarpe, non so quanti milioni di migliaia ne abbiamo usato. Ok, questo ti sembra una cosa positiva o negativa? Sì, sembra una cosa positiva questo. C'è un modo interessante di riciclare la plastica. Sì. Ecco, quando cerchiamo le cose negative dobbiamo anche cercare quelle positive che ci piacciono, va bene? Ok, sentiamo tu cosa stai pensando. Bene, ce la vuoi leggere? Da dove l'hai trovata? Benissimo, ottima fonte. La Treccani è una delle enciclopedie storiche italiane. Ci sono paesi che non hanno un'enciclopedia. Noi ce ne abbiamo diverse, la Treccani è una di queste. E in gran parte si trova ormai in rete, quindi facilmente accessibile. Prego. Nel linguaggio economico, le aziende multinazionali sono imprese di grandi dimensioni, la società e direzione si trovano in un paese, mentre gli altri impianti di produzione e le strutture di distribuzione sono dislocati in paesi diversi e le cui decisioni hanno quindi peso politico e economico anche fuori dal paese d'origine. Ok, cosa abbiamo imparato da questo? Rileggilo con più calma. Ascolta, quando leggi devi immaginare che sei in teatro. Stai declamando, ma il tuo interesse è che gli altri ti capiscano. Quindi quando leggi attenta alla punteggiatura e fai in modo che gli altri ti capiscano. Prego. Sì, allora la prossima volta che leggerai più lentamente, perché devi sempre pensare che chi ascolta ha bisogno di tempo per ricevere le informazioni che gli stai dando attraverso la lettura, va bene? E questa definizione è assai interessante, se qualcuno la volesse commentare rispetto a quell'altra più generica che avevamo dato all'inizio, eh? Aspetta, c'era lui che alzava la mano. No, e poi ti do una parola a te. Volevo dire che ho trovato la risposta a quello che ha detto Anna prima. Cioè, tu cosa hai trovato? Allora, ho trovato sulla Repubblica. Sì. Ho trovato... La Repubblica è un quotidiano? Sì. E quello è il sito internet del quotidiano? Sì. Ok, vediamo. Ho trovato un articolo che parla della Nike, che è un istituto di giovanile. Sì. L'azienda multinazionale Nike era scappata, cioè la fabbrica dove era scappata in Cambogia perché sfruttavano i bambini. Ma lì usa proprio la parola scappata sulla Repubblica? Sì. Vediamo, leggi. Allora, per il movimento Now Global è una strana vittoria dover celebrare l'apertura di una fabbrica dell'odiatissima Nike nel terzo mondo. Eppure di vittoria si tratta. La celebre multinazionale americana sta per tornare a fornire scarpe e abiti sportivi in Cambogia dopo essere fuggita per l'accusa di sfruttamento del lavoro femminile. Ma solo può tornarci perché la battaglia dei non global e delle associazioni dei consumatori e dei sindacati americani ha avuto successo. La Cambogia infatti apre le sue fabbriche ai controlli internazionali sui diritti dei lavoratori e si impegna a depredare la piaga sociale dei bambini operai costretti a produrre per i paesi ricchi. Hai letto molto bene, complimenti. E qui ci fai capire una cosa da questo testo che hai letto. Sì, ma è che le persone possono fare qualcosa. Cioè noi tutti in questo caso possiamo fare qualcosa. È sempre importante chiedersi io, noi, cosa possiamo fare? Chiaramente bisognerebbe avere anche uno, cioè vedere questi bambini che lavorano, mettersi nei loro panni, perché non possono andare a scuola e sono costretti al lavoro, per molte ore di fila. E poi bisogna chiedersi: io cosa posso fare? Noi cosa possiamo fare? Sentiamo cosa ti viene in mente. Io ho letto anche un libro che si chiama Il ballo. Si chiama? Io la storia. Come si chiama, scusa? Il ballo. Ok, cosa racconta? È una storia vera che parla di questo ragazzo che viveva in questa fabbrica dove venivano sfruttati i bambini. Siccome erano analfabeti e venivano mandati dai genitori per poter avere più soldi, perché appunto vivevano in paesi poveri come il Pakistan. E poi scoprono, cioè il ballo è un bambino di 12 anni che scopre che in realtà il padrone li sta truffando, perché arrivano a fine mese non sapendo contare, e il padrone aveva una lavagna dove ogni volta gli dava lo stipendio e toglieva un segnetto. Il problema è che loro non sapevano che lui poteva riaggiungerli, e non sapendo contare non riuscivano a capire quanti ce n'erano veramente. E quindi venivano sfruttati anche in questo senso, e venivano, cioè praticamente il libro finisce con Iqbal che riesce a trovare una soluzione. Ma poi muore. Però sì. Non volevo dire, non l'aveva letto. Senti, come ti chiami? Che mi sono scordato. Gemma. Allora, ma Gemma ci fa capire intanto una cosa con questo racconto del racconto, che non è lavoro quello lì, ma è sfruttamento criminale, d'accordo? Non lo possiamo chiamare lavoro, ma è uno sfruttamento criminale dei minori. E sarebbe importante anche conoscere quello che la nostra Costituzione dice a proposito del lavoro. Allora, come potreste fare? Potreste utilizzare i motori di ricerca per andare a vedere gli articoli della Costituzione che parlano di lavoro. Quindi potreste scrivere Costituzione lavoro e fare un'indagine in questo senso e vedere come la nostra Costituzione tratta questo argomento. Va bene? Un'altra cosa importante. Ah, c'è lei, diamo la parola a lei, che era un po' che... Sono andati sulla foresta amazzonica e il primo quanti chilometri sono stati bruciati dal 2002 ad oggi, e quello, il tot di chilometri più alto è nel 2005, 160.858 chilometri. Quadrati? Sì. Allora, perché devo dire chilometri quadrati e non chilometri? Chilometri quadrati è un'unità di misura di che cosa? E chilometri è un'unità di misura di che cosa? Sentiamo. Una misura lineare, brava, sì sì. Per esempio posso dire la distanza da qui a Firenze è 80 chilometri, continua pure. Sì, quindi l'area di una superficie. Sì, in questo caso la foresta amazzonica. Benissimo, è chiaro, quindi chilometri quadrati. Come si misura, invece, qual è l'unità di misura per il volume? Area. Allora, abbiamo detto, brava, il cubo. Quindi, se la lunghezza la elevo a 1, ottengo dimensioni lineari. Dimensioni lineari, cioè una distanza, per esempio. Va bene? Elevata al quadrato è un'area. La misura della superficie si chiama area. D'accordo? E invece lo spazio, la misura di un volume. E lì ha a che fare con l'elevazione alla terza potenza. Quindi, le distanze lineari, elevazione a 1. Distanze, cioè scusate, aree, elevazione a 2. Volume, elevazione a 3. D'accordo? Ora è suonato. Comunque continueremo a lavorare così, va bene? Questa è la foto degli uccelli. Oh, interessante. E poi sono... E qual è la foto? Ho guardato vari siti, questo qui non me lo ricordo qual è. attimo che poi lo ripeto perché mi appare. Sì, è normale. Ok, bravo. Ciao, bene. Ciao. Oh, mi chiedo, Non c'è chi?